rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti, bentornati alla nostra, bentornati spero, alla nostra rassegna stampa dedicata ai temi europei, a quello che i giornali europei e non solo scrivono di Europa. Questa è stata una settimana in cui forse un po' a sorpresa si è tornato a parlare di immigrazione non solo per tutte le code, le polemiche sui fatti di Colonia, di Capodanno, su tutto quello che sta succedendo in Germania, l'avrete sentito, la chiusura di alcuni impianti sportivi agli immigrati, la decisione della Danimarca di requisire la quantità di denaro superiore circa i 1000 euro a chiunque entri nel paese in una sorta di preventivo rimborso alle cure che la Danimarca presterà agli immigrati, la decisione della Svezia di respingere la metà delle richieste di asilo che aveva ricevuto nel 2015 e poi dall'altra parte, ripeto, forse un po' a sorpresa perché ma le condizioni climatiche purtroppo hanno dettato anche questo, l'arrivo ancora di altri barconi. Questa non è esattamente in generale la stagione in cui il corridoio del Mediterraneo è quello più usato, però le temperature sono più miti del solito e da qui di nuovo abbiamo dovuto assistere a avere queste notizie di cronaca di barconi che tentano la traversata e alcuni di essi affondano. E poi naturalmente c'è tutta la parte politica. E allora partiamo proprio dal tema dell'immigrazione con un articolo scritto da Nina Holford per Vox Europe, il sito che sapete fa, lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo, quest'opera di monitoraggio di questi temi come facciamo noi, e il titolo dell'articolo è proprio, parlavamo di clima, cambiamento climatico e rifugiati, l'adattamento è la chiave per limitare gli esodi. Le centinaia di migliaia di rifugiati che sono arrivati in Europa negli ultimi mesi scappavano dalla guerra e dalle persecuzioni in Siria, in Afghanistan o in Eritrea. Ma un'onda ancora più importante provocata dal cambiamento climatico potrebbe rappresentare presto una sfida maggiore se non sarà fatto nulla per ridurre l'impatto. Ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto un po' di cronaca del vertice di dicembre sul clima a Parigi, che i cambiamenti climatici sono in alcuni paesi che naturalmente sembrano lontani, ma poi alla fine in un mondo globalizzato niente è lontano, sembrano molto lontani, e i cambiamenti climatici stanno costringendo piccole o medie popolazioni proprio a cambiare il loro stile di vita oppure a emigrare. E da qui appunto l'articolo, e me ne leggo ancora una parte: il clima sta chiaramente influenzando gli spostamenti delle persone. Dopotutto, i milioni di africani che abitano le zone tra il delta del Mekong e il Corno d'Africa fanno affidamento a un clima piuttosto stabile per il loro sostentamento e sono esposti a eventi atmosferici estremi che stanno peggiorando a causa del cambiamento climatico. Molti vivono in zone soggette all'innalzamento del livello del mare e alle inondazioni. Inoltre, molti sperano che, sottolineando quanto il cambiamento climatico influisce sui movimenti delle persone, i leader mondiali intervengano per ridurre le emissioni e evitare il pericolo di aumentare il riscaldamento globale di più di 2 gradi. L'accordo di Parigi, di cui appunto abbiamo parlato, rappresenta un passo importante in questa direzione. Anche questa è una questione prima di tutto europea, perché se parliamo di immigrazione dall'Africa sappiamo, noi siamo la prima frontiera, noi insieme alla Grecia, che tra l'altro, come avrete sentito, altro tema di cronaca della settimana che sta per chiudersi, è stata di nuovo accusata di avere sostanzialmente delle frontiere colabrodo o di non effettuare controlli sufficientemente precisi, stessa accusa che tra l'altro appunto viene rivolta a noi. Vi leggo un'ultima parte di questo articolo: a Parigi vi furono dei segni promettenti, il segretario di Stato americano John Kerry ha annunciato che avrebbe raddoppiato i finanziamenti nazionali per l'adattamento di tutte le strutture per ridurre le emissioni, ma solo il 16% degli attuali finanziamenti pubblici per il clima è dedicato a questi progetti di adattamento e vi è un consistente ammanco dei finanziamenti per lo stesso. E tra l'altro questo, tanto vale ricordarlo, si lega al fatto che il 2016 è un anno che si è aperto, lo sappiamo, con un gennaio terribile per tutte le borse e che comunque non sappiamo bene dove andrà dal punto di vista economico. E per esempio abbiamo appena parlato degli Stati Uniti, sul futuro dell'economia americana nei prossimi mesi ci sono tantissime incognite a partire dal prezzo del petrolio. Un altro articolo, questa volta da France Inter, una radio francese, E tra l'altro lo trovate anche su Internazionale di Bernard Guetta, si intitola sempre sul tema dell'immigrazione: crisi dei rifugiati, 2 mesi per salvare Schengen. In questo caso su Vox Europe, lo trovate anche lì, c'è anche una vignetta, c'è un signore con una valigetta su cui sta scritto Schengen, che cerca di attraversare un confine e su di lui si abbattono molte barriere con tutti i nomi diversi della parola confine nelle varie lingue europee, e la sua si abbattono soprattutto sulla sua testa, e come spesso accade nei fumetti, il dolore per una botta in testa anziché da una stella sola viene indicata da tante stelle, che sapete sono quelle che compaiono sulla bandiera dell'Unione Europea. Ma quindi questo articolo, e appunto ve ne leggo una parte, non più di 2 mesi, e questa è la scadenza che il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha dato all'Unione per regolare il flusso di rifugiati. Ricordiamolo ancora una volta, l'accordo di Schengen è stato firmato tanti anni fa e riguarda la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea di merci, persone e capitali. E qui naturalmente parliamo della libera circolazione delle persone. Annullare o sospendere Schengen significa che non sarebbe più possibile fare quello che siamo ormai abituati a fare, cioè passare da un paese all'altro senza mostrare i documenti. Scrive Bernard Guetta: se l'Unione Europea fallirà, i controlli alle frontiere, in particolare Austria, Danimarca, Francia, Germania, Malta, Norvegia e Svezia, verranno ripristinati. Teoricamente si tratta di una misura provvisoria, ma nella sostanza i governi in questione esitano davanti alla possibilità di eliminarli, perché la richiesta di sicurezza da parte dell'Unione pubblica è sempre più pressante. Tra l'altro forse avrete anche letto che c'è anche una questione economica su questo. Adesso è chiaro che è difficilissimo mettere sullo stesso piano questioni di sicurezza, umanitarie ed economiche, però eliminare Schengen vorrebbe dire anche mettere in conto un costo economico nuovo. Insomma, in tempi, come abbiamo detto, di grandissima incertezza per tutte le economie e quindi anche per i budget degli stati, anche qui un problema in più. Scrive ancora Bernard Guetta nel suo articolo, che è un europeista lui sostanzialmente: l'Unione è in panne ed è poco amata dai suoi cittadini. Nei prossimi mesi vivrà al ritmo dei sondaggi sul referendum britannico per la famigerata Brexit. Alla fine, malgrado tutto, questa è la previsione di Guetta, l'Europa unita resisterà, ma l'ultima cosa di cui ha bisogno è la fine dello spazio Schengen, perché una volta presa questa strada, tornare indietro sarebbe molto difficile. Sulla questione della redistribuzione delle quote dei rifugiati c'è un altro articolo che trovate su Euronews, e in questo caso appunto si tratta di cercare di capire come ripartire in modo più equo le quote dei richiedenti asilo. Nessuno ha la soluzione, abbiamo visto, come vi ho detto, l'ultima decisione ufficiale era quella presa il 22 settembre del 2015, però abbiamo appunto sentito questa settimana che la Svezia ha fatto una marcia indietro incredibile, perché pur avendo in un certo senso, pur essendosi già impegnata ad accogliere un numero molto alto di rifugiati, mi sembra di ricordare 150.000 di richiedenti asilo, adesso sono stati dimezzati. Quindi questo vuol dire anche che il tema della distribuzione iniziale e adesso della redistribuzione delle quote dei rifugiati diventa più attuale che mai. A proposito invece della questione dell'antisemitismo in Europa, sapete che il 27 di gennaio, tre giorni fa, è stata la giornata della memoria. La giornata della memoria è una giornata istituita qualche anno fa, con forse un certo ritardo, per ricordare la Shoah, l'Olocausto, con iniziative che tutti gli anni sono diversificate, riguardano soprattutto la trasmissione della conoscenza di quello che è successo, quindi anche alle giovani generazioni. Su questo è intervenuto su un giornale tedesco che si chiama Neue Osnabrücker Zeitung l'ambasciatore israeliano in Germania, Jakob Hadass Handelsmann, che ha lanciato l'allarme per la crescita dell'antisemitismo in Europa e naturalmente anche in Germania. Il pericolo, secondo l'ambasciatore di Israele in Germania, non è più solo circoscritto a gruppi dell'estrema destra, ma è rintracciabile in tutti gli strati della società. Spaventa l'aumento delle aggressioni, in particolare in Europa occidentale. Di questo ci sono molti esempi ed è uno scandalo che accadano certe cose. A un quadro già di per sé poco rassicurante si aggiunge, secondo l'ambasciatore, anche la preoccupazione per l'arrivo in Germania di molti migranti provenienti da regioni critiche, molto critiche verso Israele, nelle quali gli ebrei vengono sempre rappresentati già da tempo come il nemico. Tra i profughi siriani, ha raccontato il diplomatico, si sono diffuse teorie cospirative secondo le quali Israele avrebbe sostenuto il dittatore Bashar al-Assad. Ma alla fine si è detto certo, comunque l'ambasciatore appunto in Germania, che la maggior parte delle aggressioni nei confronti di ebrei in Germania non siano arrivate da musulmani. Naturalmente l'ultima cosa che vogliamo è una guerra di religione ancora così, ancora più complicata, che di nuovo riporti tra i suoi componenti principali gli ebrei, visto che stiamo cercando di scongiurare una guerra di religione contro l'Islam qui in Europa. Un'altra questione della settimana, rido un po' perché forse è meglio insomma riderci su, non prenderla troppo sul serio questa questione, dimenticarla, perché come spesso si dice, ma è vero, ci sarebbero cose più interessanti, più importanti di cui occuparsi. È come immaginate, come immaginerete, la questione delle statue dei musei capitolini, bellissime statue di donne bellissime nude, potremmo dire sexy, come ho sentito dire a Oscar Giannino questa settimana qui a Radio 24. Insomma, statue che sono state coperte perché per eccesso di zelo si pensava potessero offendere la sensibilità del presidente iraniano Rouhani, che tra le molte cose che ha fatto durante la sua visita ufficiale in Italia c'è stata appunto la visita ai musei capitolini. Questa questione è stata presa subito al balzo dalla Bild, che è un quotidiano tedesco estremamente popolare, credo sia il quotidiano in Europa più diffuso, ha stampa 6 milioni di copie, lettori che probabilmente sono circa il doppio. La Bild ha ripreso le foto delle statue coperte, inscatolate proprio, e ha scritto: coprire quelle statue è stato come dire ai propri consanguinei io non vi riconosco. La consueta colonnina della Bild intitolata Post von Wagner è stata dedicata nel giorno dopo questo avvenimento al caso delle statue coperte. Dalla scelta compiuta al Campidoglio ha scritto comunque buona parte della stampa tedesca e non solo, criticando l'iniziativa come un errore. Credo che comunque, se prendiamo insomma 100 commentatori, forse 2-3 hanno considerato questo una scelta giusta, questa di coprire appunto preventivamente queste statue. Un'ultimissima segnalazione ve la faccio da Le Figaro, un quotidiano francese che ha ospitato un'intervista a Pierre Moscovici, il commissario europeo agli affari economici, che ha detto, è tornato sulla questione della Grexit, l'uscita della Grecia dall'euro che è stata scongiurata, lo ricorderete, quest'estate, e ha assicurato eviteremo anche la Brexit. Come abbiamo detto, ci sarà quasi certamente entro la prima metà del 2016 un referendum in Gran Bretagna per capire se i cittadini del Regno Unito vogliono o no uscire, non dall'euro perché non ci sono mai entrati, ma dall'Unione Europea, che sarebbe la famosa Brexit, e secondo Moscovici questo non succederà. Era l'ultima segnalazione per oggi e vi ricordo naturalmente trovate tutto sul sito radio24.it e potete anche riascoltarci in podcast, o se no ci riascoltiamo sabato prossimo. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.